Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La soia fermentata allunga la vita, quanto suggerisce uno studio pubblicato sul British Medical Journal che commentiamo oggi insieme al dottor Stefano Arzegovesi, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno a tutti. La soia è un alimento che nella tradizione millenaria del Giappone è sempre stato un alimento fermentato. Questo per due grandissimi vantaggi. Da un lato la fermentazione riduce quelli che sono i cosiddetti antinutrienti, quindi quelle componenti presenti nella soia che non ci fanno bene perché bloccano l'assorbimento di certi minerali, e contemporaneamente la fermentazione rende la soia un alimento fortemente probiotico e quindi con la possibilità di trasformare in meglio quelli che sono i nostri batteri intestinali più amici. Dottor Arzegovesi, quindi cosa mettiamo nel piatto? Ottima scelta, vi consiglio una zuppa di miso, quindi una soia fermentata fortemente probiotica, brodo caldo, anche se siete di fretta anche del dado non vi preoccupate, mettiamo dentro, ma anche la semplice acqua calda, un cucchiaino di miso a persona, a fuoco spento così non si bruciano i fermenti, mescoliamo e beviamo tiepido, attenzione a non scottarvi. E passiamo a commentare un altro studio condotto presso la University College di Cork che conferma il ruolo protettivo e preventivo della dieta mediterranea sul declino mentale. Questo è un dato molto interessante. Il centro di Cork è un capostipite dello studio del microbiota, quindi dei nostri batteri intestinali amici. I batteri intestinali sicuramente fanno bene a tantissime funzioni fisiche, ma fanno benissimo al cervello. Teniamo conto che mangiare le cose giuste, e la dieta mediterranea in questo è un patrimonio veramente dell'umanità, quindi cereali integrali, legumi, abbondante verdura e frutta, stimolano i nostri batteri intestinali amici che hanno un effetto specifico sull'invecchiamento cerebrale e quindi su quelle patologie degenerative del sistema nervoso, come ad esempio il Parkinson, l'Alzheimer, comunque tutte le malattie dove ovviamente, attenzione, mai pensare di curarle con una dieta, ma sicuramente di migliorare l'effetto di qualsiasi altra cura e di prevenire se non ce l'abbiamo. Cosa non dobbiamo mai farci mancare per proteggere la salute del nostro cervello? Doppia verdura a tutti i pasti, mio consiglio almeno una delle due mangiata all'inizio del pasto, perché quello è il momento in cui il nostro palato si abitua e gusta di più diciamo la felicità di poter mangiare una verdura. Grandissima quantità di fibra, la fibra diventa ad opera dei nostri batteri intestinali acidi grassi a catena corta, gli acidi grassi a catena corta sono a tutti gli effetti un balsamo per il nostro cervello. Bene, tra poco inizia la diretta Facebook. Oggi insieme al professor Borellini parliamo di cosmetici, cremi e prodotti per la salute e la bellezza della nostra pelle, come sceglierli, mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Buona giornata da Nicoletta, vi aspetto.